e anche Jesse Jacobs, che è un giovanissimo artista, fumettista canadese che ha ribaltato un po' il concetto di fumetto. Quindi sarà una mostra incredibilmente varia, sia dal punto di vista antropologico del personaggio che concettuale, perché poi non dimentichiamoci che Bertoldo poi è ispiratore anche di una serie di paradigmi sociali che potranno anche mostra. E sono molto attuali, anche se vogliamo. Quindi, con tutto il rispetto per Bertoldo, però è più famoso di quanto si possa pensare, perché è arrivato anche oltreoceano, una grande adesione. Ho letto un dream team di autori veramente molto vasto. Allora, per quanto riguarda l'ex chiesa di Santa Apollinare, dal 13 gennaio, cioè domani, fino al 18 febbraio, mentre sempre domani vi sarà l'incontro in sala del Consiglio al Palazzo Comunale di San Giovanni in Persiceto alle ore 18. Bertoldo fra tradizione, satira, cinema e fumetto. Ci sarà tra le voci narranti ovviamente anche Giorgio, fumettista e curatore dell'esposizione dedicata a questa figura non solo tradizionale. Allora, per quanto riguarda invece l'incontro in sala del Consiglio in Palazzo Comunale, chi ci sarà vicino a te anche per quanto riguarda questa presentazione? Ah sì, ci saranno Paolo Forni e Davide Bardi, entrambi hanno rispettivamente scritto due introduzioni al catalogo, dove appunto si parla della rivista Bertoldo, di cui dicevamo prima, e anche dell'influenza che Bertoldo, la figura di Bertoldo, ha avuto nell'immaginario del fumetto, del cinema, e quindi Davide Bardi parlerà anche di una sua trasposizione che ebbe negli anni 70 in quelli che per allora erano i fumetti osè, no? Sì. Stata una versione, allora era, diciamo, pornografica, ma adesso fa ridere come definizione. Sì, quindi essendo un personaggio anche tra il picaresco e il boccaccesco, si parlerà anche delle mutazioni che ha avuto nelle varie epoche nell'immaginario nostro. Stasera, volevo fare una piccola parentesi. Stasera all'inaugurazione saranno presenti anche vari autori che hanno partecipato alla mostra, quindi potrebbe essere una bellissima occasione per farsi firmare il catalogo e sentire anche come hanno vissuto questa esperienza, che li ha coinvolti molto. Possiamo mettere un piccolo stacco musicale e poi tornare in diretta per parlare di come collaborazioni, no? Di percorsi in mostra. A tra poco, Giorgio, grazie intanto per questa anticipazione della rubrica in mostra. Al venerdì di solito parliamo di teatro, però è bella questa intersezione tra le discipline artistiche. A tra poco. Do it the hard way and it's hard to lose. Only the soft way has a chance of failing. You have to choose. I tried the hard way when I tried to get you. You took the soft way when you said we'll see. Darling, now I'll let you do it the hard way now that you want me. E la voce di Chet Baker che intervalla la nostra presentazione con Giorgio Franzaroli per il doppio appuntamento per incontro di presentazione a San Giovanni in Persiceto, dopodiché il percorso in mostra di cui parleremo a breve. E a tal proposito, visto che siamo a San Giovanni, ci sei, Giorgio? Eccoti qua, ci sei, perfetto. Dopo la musica e le note di Chet Baker avrete anche voi il famoso sprell, questa affermazione, definizione per meglio dire, che va a terminare nella la sfilata carnescialesca di San Giovanni in Persiceto con una trasformazione sorprendente, detto lo sprillo. Fu Adriano Serra che mi definì in questo modo ai tempi della mia carriera cestistica per un'estemporaneità. Disse: oi, che sprel te fat? Ma come? Cosa stai dicendo? È una definizione, un modo di dire dialettale di San Giovanni per una trasformazione di un carro allegorico. Ecco, anche in mostra troveremo di questi sprel, Giorgio. Beh, noi per vocazione siamo situazionisti, quindi sicuramente ci sarà qualche trasformazione durante la serata. Sì, poi lo spillo, in dialetto noi sì, diciamo al spell, no? Poi ci sono le varie sì, i vari declinazioni. Sì. Sì, poi ovviamente la mostra fa riferimento al Carnevale di San Giovanni in Persiceto, che ha a braccio aperto questo progetto, perché quest'anno cade il 150° anniversario del Carnevale. Quindi ci vedrà coinvolto gennaio, febbraio e marzo, quindi ci saranno 3 mesi di baccanali e festeggiamenti. La mostra, che si chiama Le sottilissime matite di Bertold, che fa un po' il verso al titolo originale della novella, che è Le sottilissime astuzie di Bertold, è una delle tante iniziative che compongono il Carnevale di San Giovanni di Bertold. E quindi sì, attecchisce proprio lo spirito carnevalesco in tutte le sue forme. Ovviamente con l'egida dell'Associazione della Carnevalesca di San Giovanni, che ha sostenuto questo progetto e lo sta amando proprio visceralmente. E ci credo. Le sottilissime matite di Bertoldo, fumettisti e artisti alla corte del re, all'ex chiesa di Santa Apollinare, e sarà fino al 18 febbraio. Quante opere in mostra, Giorgio? Scusa, ho perso un attimo la comunicazione. Quante opere in mostra? Ah, sì. È quasi un centinaio, sono quasi un centinaio, quindi ogni artista, come dicevo prima, lo ha interpretato anche mischiando, ci sono dei crossover inediti tra Lupo Alberto e Bertoldo Kattivik, quindi... questo è uno spillo, sì. Sì, beh, addirittura c'è una mutazione alla Cronenberg di Ivan Manutelli e un'altra con Pierluigi Bersani di Bauro, quindi è un carnevale letteralmente di vignettisti e di fumettisti. E tutto ciò sarà fino al 18 febbraio. Ricordiamo anche l'incontro in sala consiglio di Palazzo Comunale Bertoldo fra tradizioni, satira, cinema e fumetto, che sarà invece alle ore 18 nella giornata di domani, sabato 13 febbraio. Io ti ringrazio per questa anticipazione, magari ci vediamo a Persiceto per l'esposizione e non solo. Intanto ti auguro una buona giornata, Giorgio, una buona vigilia di weekend. Grazie a voi. Ecco, faccio un'anticipazione per chi non avesse voglia di spostarsi pigramente verso San Giovanni Persiceto: saremo noi a spostarci a Bologna tra la Borsa a marzo. Certo, ne daremo magari notizie anche con la nostra emittente. Perfetto, vi aggiorneremo. Dai, come ti ho detto, abbiamo un interesse particolare non solo con il Breakfast Club, ma anche con l'associazione Il Pioniere, che si occupa di grafica e illustrazione. Per cui un doppio ringraziamento per il curatore dell'esposizione, Giorgio Franzaroli, che aspettiamo nuovamente in frequenza sui 103.1. Intanto una buona giornata e un buon ascolto per Radio Città Fujiko. Grazie a voi, buona giornata a tutti. C'est bête ça. Je ne peux pas lire ici. Ça y est, et c'est reparti. Et dis donc, Nino, tu peux pas jouer moins fort? Faut que je me cultive. Et dis donc, Nino, Kafka, c'est pas Astérix? Moins fort, Nino, j'ai les nerfs qui lâchent. Grâce à ces musiciens, j'entrevois tout à coup l'univers kafkaïen qui rend les hommes fous. l'univers kafkaïen. Oh yeah, moi je l'ai chez moi, c'est bien le dernier moi. Andiamo verso la conclusione di questo esteso last minute e ci spostiamo nella vicina Crevalcore da San Giovanni, che è territorio di confine, come la Crevalcore con tre teatri per te, quant'erre, ne aggiungo anche, quindi la mia pronuncia diventa sempre più difficoltosa. Sono un maestro nel mettermi nei pasticci da solo e dopo la pubblicità partirà la sigla della rubrica In Scena, come di consueto, al venerdì. Un buon ascolto e a tra poco. Très calé Kafka.